Il purgatorio è un luogo fisico o uno spazio interiore, si chiedeva ieri il Papa. Su questo pressante interrogativo, che tiene in ansia milioni di italiani, il Partito Democratico si è diviso. Compatto invece il PDL. Sul purgatorio vanno bene entrambe le ipotesi. Basta che non ci siano giudici.